Arte Fiera di quest'anno è la grande vetrina mondiale per l'arte italiana, che è un titolo che si è conquistato oramai da tempo, però con delle interessantissime punte di arte internazionale di grande livello. Ecco, una cosa che io ho notato e che mi ha fatto molto piacere è l'impegno delle gallerie nel presentare opere di importanza, opere di rilievo, anche di giovani artisti. Non è un mercato, Arte Fiera è una grande mostra d'arte contemporanea dove si possono comprare le opere. Qual è l'opera più strana che ha visto e quella che le è piaciuta di più? La più strana non saprei dire, mi sono piaciute, non ne cito alcune, ma mi sono piaciute moltissimo alcune opere nell'area delle giovani gallerie, perché noi avevamo curato quella sezione con un'attenzione quest'anno in particolare, con l'intento di mostrare al pubblico gallerie non consuete, che non si vedono in tutte le fiere, e a queste avevamo raccomandato di portare di essere coraggiosi e di portare cose nuove, cose fresche. E questo io trovo che sia stato una bella soddisfazione, perché ci sono cose veramente interessanti a prezzi, insomma, per tutte le tasche, non tuttissime naturalmente come sempre, però insomma da 500 euro in su. Per cui, in su che vuol dire? Fino a? 3-4 milioni, questo non è un problema, a salire si fa sempre presto. Ecco, chi è che può, che compra? Sono più italiani o più gli stranieri? Sono più gli italiani, perché abbiamo più italiani, una fiera si svolge in Italia, è chiaro che gli italiani sono come numericamente sono di più, e sono anche, oltretutto gli italiani sono collezionisti molto intelligenti e colti e comprano dappertutto, tutti amano i collezionisti italiani perché è un collezionismo molto raffinato. C'è una tendenza nuova? Una tendenza nuova, oggi è difficile parlare di una tendenza, ci sono tante tendenze che vivono su un rapporto con la società, con la contemporaneità e proprio con la quotidianità molto aperto, e quindi questo non è che sia una linea nuova, ma è una riconferma di l'arte è scesa dal piedistallo e parla con il linguaggio delle persone, più che con il linguaggio, con gli elementi della vita quotidiana, e quindi questa è una tendenza che da qualche anno percorre la ricerca giovane. E questo vuol dire che è l'arte che è cambiata o è il pubblico che è cambiato? Tutti e due. L'arte è cambiata, è molto cambiata. L'arte è così cambiata che oggi è difficile dire, parlare come si parlava una volta, pittura e scultura. Oggi si parla di installazioni, oggi si parla di invasione dello spazio in modo diverso. È proprio cambiato il concetto di opera d'arte.